Un mito, è morto Michael Jackson, arresto cardiaco mentre era nella sua casa di Los Angeles, in lutto i fan di tutto il mondo. Il CIPE dà il via libera alla realizzazione di una nuova autostrada Milano-Brescia, fondi anche per il traforo del Frejus. E il Consiglio dei Ministri varerà oggi il decreto con aiuti alle imprese e alle famiglie. No al rinvio del congresso, dice il segretario del PD Franceschini alla direzione del partito. Il G8 dei ministri degli esteri a Trieste e in Iran cessino immediatamente le violenze, dice Frattini. Seconda prova di maturità per il classico, una versione di Cicerone tratta dal De Officiis. Per lo scientifico, problemi con esagoni e tangenti. Le Dolomiti sono da oggi patrimonio dell'umanità, lo ha deciso il comitato dell'UNESCO. Thriller, pubblicato nel 1982, è l'album campione di incassi della storia della musica, quello che ha incoronato Michael Jackson re del pop. 750 milioni di dischi venduti, 13 Grammy Awards conquistati, in una carriera iniziata da bambino, a 5 anni, insieme ai fratelli, Jackson 5. Una strepitosa carriera da solista durata tutti gli anni Ottanta, sposa Lisa Mary Presley, la figlia di Elvis, dalla quale divorzia dopo meno di 2 anni per convolare a nuove nozze con Debbie Rowe, la sua infermiera personale. Dal breve matrimonio nascono 2 dei 3 bambini di cui Jackson dichiara di essere padre naturale, bambini che qualcuno considera non sicuri insieme ad un papà che mostra strane manie. L'ossessione per l'igiene appariva in pubblico con una mascherina, il desiderio di liberarsi del colore e dei lineamenti da ragazzo nero attraverso costosi interventi chirurgici. You've seen my childhood. I'm searching for the world that I come from. Ai bambini invece, non solo suoi, ma quelli poveri e malati, si dedica con passione. Crea per loro un parco giochi a tema all'interno del Neverland Ranch. E proprio quei ragazzini sono al centro del suo scandalo giudiziario. Accusato di molestie sessuali, viene processato e assolto nel 2005. Ma da quella vicenda non si riprenderà mai. Il tour mondiale che avrebbe dovuto riabilitarlo non ci sarà più. Erano già stati venduti i biglietti per 85 milioni di dollari, poca cosa di fronte ai 400 milioni di debiti che i media americani dicono abbia lasciato. Dettagli che non diminuiranno l'amore di milioni di fans che lui ricambiava. Così li ha salutati per l'ultima volta il 5 marzo a Londra. I love you. I really do. You have to know that I love you so much. Really. From the bottom of my heart. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Salarge, buongiorno da Alessio Maurizi. Ed Alessandra Tedesco. Abbiamo dunque deciso di aprire così, dedicando proprio l'apertura a Michael Jackson, morto a Los Angeles per un attacco cardiaco, anche se per chiarire le cause di questo attacco bisognerà probabilmente aspettare l'autopsia. Di Michael Jackson parleremo approfonditamente fra poco, dopo la viabilità delle 13:15. Ora invece andiamo a Roma, perché il CIPE, ossia il Comitato Interministeriale Prezzi, ha sbloccato i fondi per una serie di opere pubbliche. Che mentre il Consiglio dei Ministri è riunito per varare il cosiddetto decretone che contiene aiuti per le imprese e per le famiglie, quasi una manovrina d'estate come molti l'hanno definita. E allora andiamo a Roma con Vincenzo Miglietta. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Parlavamo del CIPE, via libera dunque ai fondi per quelle che lo stesso Palazzo Chigi definisce opere di grande rilevanza strategica, per un ammontare di risorse pari a 3,1 miliardi di euro che si aggiungono ai 4,9 già stanziati, nello specifico gli interventi strutturali individuati dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica sono tra l'altro il progetto definitivo della galleria di sicurezza del Frejus per un costo totale di circa 204 milioni e poi l'asse autostradale Brescia, Bergamo, Milano per un importo di 1,6 miliardi. L'opera sarà cantierata entro il prossimo luglio, assicurano dal Ministero delle Opere Pubbliche. Vi è poi l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria per un importo di 130 milioni, l'asse stradale Agrigento-Caltanissetta e l'interporto di Termini Imerese. Altri fondi arrivano infine all'Abruzzo per la viabilità. E sin qua le infrastrutture, Vincenzo, in corso c'è anche il Consiglio dei Ministri in attesa interventi per le famiglie e per le imprese. È così, riunione dell'esecutivo iniziata dopo le 12, al centro dell'attenzione del governo vi è il cosiddetto decreto anticrisi, la misura più importante richiesta dalle imprese riguarda la detassazione degli utili reinvestiti, vi è inoltre una riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie, il capitolo occupazione, arrivano i progetti di formazione per i lavoratori che altrimenti sarebbero costretti a stare in cassa integrazione, 190 milioni vanno poi per incrementare gli assegni legati ai contratti di solidarietà all'Italia, i rimborsi per le obbligazioni in mano ai piccoli azionisti salgono al 70,97% del valore nominale, le imprese infine arrivano aiuti per aprire un'attività, le cosiddette start-up, e sono destinati ai lavoratori che altrimenti a causa della crisi sarebbero destinatari di trattamenti di sostegno al reddito. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, noi rimaniamo a Roma per la direzione del Partito Democratico, nella quale naturalmente si discute del congresso di ottobre, rinviarlo o non rinviarlo, e poi delle candidature appunto alla guida dello stesso partito. In diretta Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, improponibile un rinvio, serve un congresso, sarebbero queste le parole del segretario del Partito Democratico Dario Franceschini alla direzione generale del PD. Impossibile posticipare a dopo le regionali del 2010, non bisogna avere paura del congresso, dice Franceschini, ci farà bene. Due quindi finora i candidati, Franceschini per l'appunto, Pierluigi Bersani, ma c'è anche un pressing sul sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, sentiamolo ai nostri microfoni. E adesso è presto per prendere, vedremo cosa deciderà la direzione, prima di tutto sulle modalità del congresso. Quando saranno più chiare le modalità del congresso sarà possibile valutare tutte le ipotesi di candidatura. Io allo Stato faccio il sindaco di Torino, intendo rispettare il mandato con gli elettori che mi hanno votato 2 anni fa fino in fondo, quindi fino al 2011. Alla direzione partecipa anche Enrico Letta, candidato alle scorse primarie, che ha ribadito oggi di voler appoggiare la candidatura di Pierluigi Bersani. Sentiamo Letta. Che finalmente si comincia a parlare di politica, di congresso, non di vecchio e nuovo, ma di cose concrete per l'Italia e di come questo partito può cambiare rispetto a questi 20 mesi che l'hanno portato al minimo storico. Direzione generale a porte chiuse quindi con le proteste di Mario Di Norsi, e per il momento qui dalla sede del Partito Democratico a Sant'Andrea di Fratte è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito, sin qua dunque il dibattito all'interno del Partito Democratico. Adesso invece andiamo al sud con una notizia di cronaca. Non sono ancora chiare le ragioni che hanno portato un uomo a sparare in un campo di calcetto a Crotone. Una persona è stata uccisa e un ragazzo ferito. Era la vittima designata dell'assassino, Gabriele Marrazzo, 35 anni, l'uomo ucciso ieri sera a Crotone. E questa è l'ipotesi sulla quale stamani stanno lavorando gli investigatori, che non escludono alcuna pista per cercare di risalire all'identità del responsabile dell'omicidio e del ferimento di altre 8 persone. Marrazzo era rientrato a Crotone da un anno dopo essere emigrato in Germania ed era conosciuto dalle forze dell'ordine pur essendo incensurata. Le indagini sono coordinate dalla procura di Crotone, ma già dalle prime battute c'è stato un collega con la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nell'eventualità che emerga un movente di 'ndrangheta dietro l'omicidio ed i ferimenti. L'ucciso e le altre 8 persone stavano giocando a calcetto, la solita partitella tra amici, quando una pioggia di piombo li ha investiti uccidendo uno di loro e ferendone altre 8, uno dei quali di appena 11 anni in modo molto grave, che durante la notte è stato già trasferito nell'ospedale di Catanzaro. Filippo Vettri, GR24, Sole 24 Ore, Crotone. E torniamo all'economia per un momento, perché abbiamo detto che c'è il Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare aiuti anche per le imprese. E secondo uno studio della Fondazione Nord-Est del Sole 24 Ore, quelle italiane che cercano di andare oltre la crisi in questa fase di passaggio accentuano la scelta tra due modelli su tutti, quello aperto alle sfide globali e invece quello sempre più radicato sul territorio. Ce ne parla Daniele Marini del Sole 24 Ore. I numeri implacabili delineano una situazione economica assai critica. L'orizzonte sembra schiarirsi, ma non prima del prossimo anno, e con una ripresa che sarà lenta e lunga, come in una traversata. La questione è allora con quale stato di salute arriva il sistema produttivo italiano a questo percorso. L'Italia delle imprese, la ricerca realizzata dalla Fondazione Nord-Est per Unicredit Corporate e il Sole 24 Ore, evidenzia come ci sia una parte consistente di aziende, soprattutto nel mondo industriale, che può affrontare il tragitto meglio attrezzata perché da tempo ha fatto un salto di qualità, un cambiamento di pelle. nel modo di organizzare la produzione, nell'aumentare il valore aggiunto ai prodotti, investendo nella parte immateriale della creazione, coordinando meglio la filiera, aprendosi ai mercati esteri, contando e investendo su se stesse, marcando un'identità industriale di nuova generazione, soprattutto nel nord e, più diffusamente, nel nord-est. Non ci sono ricette o modelli buoni per tutti, ma la costruzione del futuro, del dopo crisi, parte da questi esempi, dai territori, dalle singole esperienze imprenditoriali. E sentiamo ora dove ci porta oggi il nostro gastronauta Davide Paolini. Per una grande serata estiva, specialmente per chi si trova in Sardegna e magari ad Olbia, il posto giusto è all'Hotel Gallura da Rita Denza, in corso Umberto 145. Bene, qui si mangia il pesce di giornata, quello che portano i pescatori, i grandi amici di Rita, ma non solo, si mangiano una serie di zuppe di erba che veramente mostrano la vera grande cucina sarda. Si mangiano gli anemoni fritti, il limone di mare, una grandissima catalana e tante altre sorprese, a cominciare dal piatto del crudo, veramente che è un piatto regale. Lo ripeto, Hotel Gallura ad Olbia, corso Umberto 145. E adesso andiamo con un nuovo riconoscimento che riguarda l'Italia, perché da oggi le Dolomiti entrano ufficialmente nel patrimonio dell'umanità, nella prestigiosa lista dell'UNESCO. Qui in studio con noi Gigi Donelli. Sì, buongiorno. Dunque, l'abbiamo seguito in questi giorni, abbiamo seguito da circa un mese in realtà la marcia di avvicinamento e proprio pochi minuti fa da Siviglia è arrivata la conferma. Effettivamente le Dolomiti entrano a fare parte della lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Un evento, come dire, su cui si è lavorato per molto tempo, su cui hanno lavorato soprattutto le cinque province che raccolgono di fatto questo riconoscimento intorno alle Dolomiti. Quindi parliamo di Trento, di Bolzano, di Pordenone, di Udine e naturalmente di Belluno. Ma credo che abbiamo un collegamento. Sì, siamo in grado di collegarci in questo momento. Si trova in Spagna Mauro Gilmozzi, che è l'assessore agli enti locali della provincia di Trento, quindi quella direttamente interessata da questa decisione. Allora Gilmozzi, ve l'aspettavate questa decisione? Era attesa? Ma un po' era nell'aria, ma fino all'ultimo momento, visto che le candidature sono discusse proprio al momento in cui vengono aperte e presentate, non si poteva sapere. In realtà credo sia andato proprio tutto benissimo, perché non è stata neanche una minima sbavatura, proprio né un'osservazione che avesse potuto in qualche maniera mettere in discussione questa candidatura. Ci sono state delle domande, le risposte sono state date dall'ambasciatore e dalla ministra Prestigiacomo e alla fine, con un grande applauso, insomma, ci siamo visti dare questo importantissimo riconoscimento. Senta assessore, sappiamo che questo riconoscimento non porta direttamente, perché non è questo lo spirito, soldi, insomma denari a chi lo riceve, alle Dolomiti in questo caso, e quindi a voi province, però adesso quali sono le ricadute che vi aspettate? Ma guardi, ci sono ricadute da tanti punti di vista, quello della notorietà evidentemente è il primo, ma la notorietà è funzionale alle attività scientifiche, per esempio, che possono svolgersi e che saranno finanziate sempre di più, da come ci dicono, proprio nel settore della geologia, che è un settore che ha molto bisogno di questo. Ci saranno opportunità forti a livello politico, cioè di discutere quali sono le politiche anche della montagna, finalmente, perché non si parla di Dolomiti solo per i paesini turistici, ma si parla di Dolomiti anche per quei paesi che vivono, no? Sotto, per quella gente che vive all'ombra di questi magnifici monumenti naturali e che però hanno bisogno, insomma, di avere delle risposte forti. Ci sono ragionamenti anche su un modo nuovo di concepire il turismo, dove appunto gli aspetti ambientali non rappresentano un limite allo sviluppo. Certo, ma anzi anche un modo per, esattamente, un'opportunità. Grazie a Mauro Gilmozzi, assessore agli enti locali della provincia di Trento. I'm telling you on how I feel, gonna catch your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me, alright. I'm giving you watch your mouth. I know you dream, but you're about. E questa era Bad di Michael Jackson, forse la più grande star del pop internazionale. È morto ieri, colpito da un infarto a 50 anni. Si trovava nella sua casa di Los Angeles. Michael Jackson, da vera star del pop internazionale, nella sua vita era passato attraverso mille esperienze anche dal punto di vista proprio fisico. Noi allora ci spostiamo subito negli Stati Uniti con Luciano Clerico. Buongiorno Luciano. Buongiorno a voi. E che cosa si dice in queste ore appunto di quanto accaduto a Michael Jackson? Beh, si attendono i risultati dell'autopsia, non c'è dubbio che lui sia morto di infarto, anche se manca ancora il referto ufficiale dei medici del Ronald Reagan Medical Center di Los Angeles, dove è stato ricoverato. Qui i giornali americani oggi sottolineano che sarebbe morto per un'iniezione di Demerol, che è un farmaco vicino alla morfina, che ha gli stessi effetti della morfina. Di sicuro lui si era sottoposto ormai da anni a trattamenti farmacologici di ogni tipo per far diventare più chiara la sua pelle, perché aveva un tumore della pelle al viso, perché era convinto che fosse una specie di rivoluzione esistenziale la sua, e credo che abbia molto molto sofferto negli ultimi anni della sua vita. È incredibile vedere qui in America la reazione della gente quando hanno saputo della notizia. Quanti saranno i fan di Michael Jackson? Milioni? Io non lo so, ma insomma nel mondo sicuramente, credo anche in America dove lui viveva ovviamente. Assolutamente, è veramente sorprendente vedere la reazione che c'è stata qui. Pochi minuti, ma veramente pochi minuti dopo che la notizia si era diffusa, spontaneamente si sono radunati in ogni angolo d'America suoi fans, sia davanti all'ospedale, sia davanti alla villa che aveva in affitto lì a Los Angeles, ma anche ad Encino, in Indiana, dove lui era nato, e dove esiste un incrocio di due strade che portano il suo nome, Family Jackson e Michael Jackson Road. Lì a quell'incrocio c'è la sua casa, e lì davanti a decine, centinaia di persone a portare fiori, accendere candele, così come davanti all'Apollo Theater di New York, dove lui si esibì per la prima volta sul palcoscenico quando aveva 9 anni, con i Jackson 5, infatti, che ricordavamo nella nostra copertina iniziale. Tra l'altro non ci sono solo, come dire, persone normali ad essere fan di Michael Jackson, ma anche molti VIP. Ci sono state dichiarazioni nelle ultime ore da parte, per esempio, di Liz Taylor e di altri. Ma di Madonna soprattutto, che è considerata l'altra icona, l'altra Michael Jackson dell'ultimo ventennio della pop music. Ma hanno commentato in tantissimi, e tutti sottolineando lo stesso messaggio. Lui voleva essere amato, e tutti dicono era rimasto un bambino prodigio, per questo voleva aveva fatto di Peter Pan la sua idea di fondo nella vita, e voleva portare la fiaba nella realtà della sua vita, ed è questo poi che l'ha ucciso. Però tutti gli riconoscono un talento assoluto: Liz Taylor, Madonna, Cher, Elton John, adesso non so, non me ne vengono in mente altri, ma hanno tutti quelli che lo hanno conosciuto, anche semplicemente ascoltato, faceva parte dello Star System. Grazie intanto anche a Lucio Clerico per questo racconto dall'America, e salutiamo Enzo Gentile, buongiorno. Buongiorno a tutti. Giornalista e critico musicale. Sui record, insomma, di dischi venduti, poi sappiamo che spesso magari non è proprio così, però Thriller è stato uno dei dischi più venduti al mondo nell'82. Sì, ma soprattutto è ancora un disco che garantisce una tenuta sonora straordinaria. Anche chi non ha amato quel genere musicale, forse un po' troppo commerciale, un po' troppo facile, non può che riconoscere in un album come Thriller, ma anche in altre prove di Michael Jackson, una superlativa capacità di comunicativa, non a livelli banali, magari con il desiderio di spettacolarizzare, di rendere un po' circense anche la dimensione strettamente musicale. Basti pensare anche al côté visuale che Michael Jackson ha comunque posto al fianco dei suoi dischi. Un disco come Thriller si valse di un video, quando ancora quel linguaggio era un po' ai primordi, girato niente meno che da John Landis, un video di 15 minuti che era un vero e proprio piccolo film, quando eravamo un po' in tempi dove la tecnologia e soprattutto gli sforzi economici per finanziare questo tipo di linguaggio non erano assolutamente a pieno regime. Ecco, anche in questo fu sicuramente un pioniere. Ecco, prima parlavamo di record. Sicuramente, al di là di quanto abbia venduto Thriller, Jackson è stato l'autore che ha venduto di più in assoluto dischi al mondo, più dei Beatles, un numero che, per esempio, sentendolo oggi mi stupiva. Secondo te, dal punto di vista musicale, un artista realmente valido, o ha contato molto quel côté, appunto, che ci descrivevi prima? È stato ballerino anche, insomma, faceva i video e così via. Certo, direi che per i primi 20 anni di carriera, che non sono pochi, in parte con i Jackson 5 e poi con le prime prove da solista, Michael Jackson abbia sicuramente contribuito a scrivere delle pagine destinate a rimanere. Poi la fusione tra black music, tra soul, pop, una dimensione che è riuscito comunque a declinare in maniera orecchiabile e buona a tutte le latitudini, cioè ha fatto una musica nera, quando ancora questo era il suo principio anche dal punto di vista cutaneo, è riuscito a farla anche a favore dei bianchi, quindi un ponte eccellente a livello proprio comunicativo. Dopodiché, da diversi anni a questa parte, dal punto di vista artistico, Michael Jackson aveva sicuramente perso molte posizioni, era un po' in caduta libera, e questo mi fa pensare davvero a un collegamento ideale con la morte di Elvis Presley. Cioè, trovo che siano davvero in parallelo anche lo sconcerto, il dolore, la sorpresa su due artisti che avevano già dato tutto praticamente, ma che rimanevano in primissimo piano anche nella memoria, nel rispetto, laddove c'era stata anche molta discussione, molto gossip, però per entrambi rimanevano l'affetto e la stima per quanto avevano saputo scrivere e raccontare a livello musicale, e per entrambi l'immagine era stato un principio determinante. Grazie allora Enzo Gentile, giornalista critico musicale, per essere stato con noi. Grazie, buona giornata. E adesso noi invece vogliamo farvi sentire alcuni estratti dalla trasmissione I Magnifici di Radio 24, che si è occupata proprio di Michael Jackson poco tempo fa. In una celebre intervista di Oprah Winfrey nel 1993, in cui per la prima volta Michael Jackson accetta di parlare a lungo di sé e degli aspetti più intimi della sua vita, la famosa giornalista televisiva americana gli chiede se sente di aver perso la sua infanzia. Non ho fatto quello che hanno fatto gli altri bambini. Le cose semplici che loro considerano normali, avere degli amici, andare a dormire da loro, passeggiare con i compagni. Io queste cose non le ho mai conosciute. Oggi compenso quello che mi è mancato. La gente si domanda perché sono sempre attorniato dai bambini. Io trovo con loro quello che non ho mai conosciuto quando era il momento. Disneyland, i parchi dei divertimenti, i videogiochi. Adoro queste cose. Da bambino non facevo che lavorare, un concerto dopo l'altro. E poi gli studi di registrazione, le trasmissioni televisive, le interviste, le sessioni fotografiche. Avevo sempre qualcosa da fare. Ed è forse proprio questa della infanzia e anche dell'adolescenza in qualche modo perduta di Michael Jackson la chiave di lettura forse proprio della sua intera vita. In questa famosa intervista Jackson prosegue confessando altri aspetti. Sono stati anni molto difficili. Credo che tutte le giovani star soffrano in questo periodo, perché tu non sei più l'adorabile bambino che eri fino a quel momento. Cominci a crescere mentre gli altri vogliono che tu resti per sempre un ragazzino. Il pubblico lo vuole e invece la natura fa il suo lavoro, ovviamente. Avevo dei brufoli e mi vergognavo. Non volevo guardare il mio viso, mi lavavo la faccia al buio, evitavo gli specchi. Mio padre mi prendeva in giro e io piangevo tutti i giorni. Non era la prima volta che Michael Jackson e quasi tutti i suoi fratelli indicavano il padre come una delle principali cause dei loro problemi. C'è molta tristezza nel mio passato, nella mia adolescenza, soprattutto a causa di mio padre. Tutto questo mi ha molto rattristato. Ti prendeva in giro? Sì. Ti ha mai picchiato? Sì. Credo sia difficile essere picchiati e poi dover andare in scena. Perché ti picchiava? Mi vedeva come, non so, voleva che fossi il suo figlio carino e non so che cos'altro. Mi costringeva a una disciplina molto severa. Era molto duro, molto severo. Un suo solo sguardo mi faceva paura. Mi terrorizzava. Qualche volta il solo vederlo mi faceva sentire male. Mi faceva vomitare, anche da adulto. Lui non mi ha mai sentito confessare queste cose. Mi dispiace. Dunque, questa è la famosa intervista a Oprah Winfrey. Vi ricordiamo che alle 15 Magnifici andrà in onda proprio con una puntata interamente dedicata a Michael Jackson, mentre la prevista puntata sui Pooh andrà in onda domani alle 15. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. La fine di un mito, è morto Michael Jackson, arresto cardiaco mentre era nella sua casa di Los Angeles, in lutto i fan di tutto il mondo. Il CIPI ha dato il via libera alla realizzazione di una nuova autostrada Milano-Brescia, fondi anche per il traforo del Frejus. E il Consiglio dei Ministri varerà oggi il decreto con aiuti alle famiglie e alle imprese. No al rinvio del congresso, dice il segretario del PD Franceschini alla direzione del partito. Il G8 dei ministri degli esteri a Trieste, in Iran, cessino immediatamente le violenze, dice Frattini. Seconda prova di maturità, ne parleremo fra pochissimo. Per il liceo classico, una versione di Cicerone tratta del De Officiis, per lo scientifico problemi con esagoni e tangenti. Le Dolomiti da oggi patrimonio dell'umanità, lo ha deciso il comitato dell'UNESCO. Allora, lo dicevamo nei nostri titoli, oggi seconda prova scritta per il 500.000 di ragazze e ragazzi che affrontano l'esame di maturità, come sempre latino al classico, matematica allo scientifico, la prova di lingua straniera ovviamente per i licei linguistici. E allora andiamo a Roma in diretta con Savino Gallo, che dovrebbe trovarsi di fronte a un liceo classico. Savino. Sì, buongiorno dal liceo classico Giulio Cesare, dove la seconda prova dell'esame di maturità, la versione di latino, si è conclusa da circa un'ora. Da tradurre c'erano i paragrafi 88 e 89 del De Officiis di Cicerone, una versione che a detta dei ragazzi del Giulio Cesare è stata più facile di quanto si potesse prevedere. Cicerone dunque è non tacito, quello che alla vigilia era considerato un po' da tutti il più temuto. Una versione lunga ma comunque lineare che in molti hanno concluso prima del termine delle 4 ore previste. Ma sentiamo le impressioni sulla versione e sui professori di alcuni dei ragazzi che questa mattina hanno sostenuto la prova. Per fortuna è uscito Cicerone non tacito, che diciamo era lo spauracchio per tutti, credo. Alla fine la versione era abbastanza lineare nella costruzione, a parte con un paio di frasi che comunque che abbiamo risolto con più difficoltà. Per il resto magari era un po' lunga, però comunque si capiva abbastanza. Anche il significato intrinseco si capiva, diciamo. Sì, più o meno la stessa cosa, nel senso il significato era piuttosto chiaro. La Cicerone poi come stile è lineare, non è difficile da tradurre. Savino, non è che c'è qualcuno, come ci è capitato ieri, che ha consegnato in bianco, preso dal panico? Tutti bravi quelli, no, che hai intervistato tu. No, pare di no, pare che la versione sia stata facile, le difficoltà le presentavano soltanto le prime 3 righe e poi, insomma, come hanno detto anche molti ragazzi, il vocabolario in questi casi aiuta molto, nel senso che Cicerone lo si trova molto spesso sul vocabolario. Come esempio, infatti, per le parole da tradurre. Grazie allora al nostro Savino Gallo. Noi ora invece veniamo alla prova di matematica temutissima da chi ha fatto lo scientifico, come me per esempio. Anch'io. Ecco, vedi, siamo in due allora. Ne parliamo con Angelo Guerraggio, docente di matematica per l'economia all'Università Bocconi di Milano. Allora, professor Guerraggio, che cosa proponeva questa prova? Proponeva era difficile? No, non era difficile, era... Mi sembra che si possa dire che fosse relativamente semplice, anche se è chiaro che un conto è se lo dice uno studente, un conto è se lo dice un insegnante, abbiamo diverse prospettive, però mi sembra oggettivamente abbastanza semplice, lineare. Era composta da 2 problemi e i ragazzi ne dovevano fare uno di questi 2. Il primo era un problema di geometria che richiedeva però anche la conoscenza delle funzioni trigonometriche elementari. Il secondo è un problema, diciamo, di analisi che partiva da una funzione, dal grafico di una funzione logaritmica. Poi nella seconda parte c'erano 10 domandine, il cosiddetto questionario, e i ragazzi ne dovevano erano tenuti a fare 5, a rispondere a 5 di questi quesiti. quindi mi sembra tutto, insomma, un tema onesto, ecco, un compito onesto. Lei è ottimista, ma pensa che i ragazzi se la siano cavata davvero? Sappiamo che la matematica resta e forse anzi sempre più è lo scoglio più difficile da superare. Come sono i ragazzi che vengono alla sua università in matematica? Preparati? Ma sì, abbastanza, poi dipende ovviamente da ragazzo a ragazzo, dipende da tante cose, però mediamente preparati, anche se hanno notevoli difficoltà rispetto alle generazioni passate, 5 anni prima, 10 anni prima, hanno notevoli difficoltà di calcolo, e quindi magari io li vedo al primo, agli anni successivi d'università, sono ben attrezzati intellettualmente e riescono anche a capire concetti relativamente questi complicati, e poi invece si perdono, hanno delle difficoltà serie nei conti, perché non hanno più un certo allenamento, perché sono abituati subito a schiacciare i tasti della calcolatrice e così insomma via. Le vecchie tabelline adesso, diciamola, ma sì, così, ma sì, forse bisognerebbe, non dico riprenderle come si insegnavano 20, ma perché 30, no, 40 insomma, anni fa. Era anche divertente, tutto sommato. Io le ricordo, tutto sommato, adesso, sì. Con piacere. Senta, Guaraggio, sì. Una risposta flash. Ieri abbiamo parlato dei temi di italiano, insomma, c'era qualche elemento di originalità nei temi, nelle tracce di quest'anno. Per la matematica, insomma. Per la matematica direi che gli elementi di originalità sono questi. Il primo, che i temi erano abbastanza completi, nel senso che saggiavano le competenze dei ragazzi su vari aspetti, geometria, trigonometria, analisi. Poi l'elemento ancora che i calcoli non erano molto laboriosi, e poi l'elemento, questo mi sembra significativo, c'era il tema per l'ordinamento, per il programma tradizionale dello scientifico, e quello per il PNI, per quello che una volta era il corso avanzato, il Piano Nazionale Informatica. Ecco, è significativo, mi sembra, che quest'anno i due temi fossero praticamente uguali, i due problemoni erano identici, sia l'ordinamento che il PNI, e le domandine del questionario 6, 7 su 10 erano identiche. Mi sembra quasi che anticipasse un po' la riforma e che quindi ormai di liceo scientifico ce n'è uno solo. Una standardizzazione, insomma, però sì, voluta. Sì. Grazie, professor Guerraggio, per essere stato con noi. Devo dire che, insomma, geometria, analisi e trigonometria sono vaghi ricordi. La febbre è solo gli integrali, te li ricordi? Sì, no, ma non mi ricordo il simbolo, ma cosa si dovesse fare, proprio forse è proprio completamente perso la memoria. Vabbè, ma insomma... Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Ecco, allora, rallegraci tu con la stampa straniera. In realtà cominciamo con un argomento che è un lutto, la stampa invasa dalla notizia della morte di Michael Jackson. Sì, è impressionante, c'è un sito dove ci sono tutte le prime pagine dei giornali americani, e se uno prende veramente dall'Alaska alla Florida, alla Louisiana, al New Mexico e ovviamente alla California, sono tutti, dai giornali locali a quelli nazionali, hanno delle foto, tra l'altro quasi miracolose. Sono, perché non credo che si siano messi d'accordo, ognuno ha scelto una foto diversa. E mi ha colpito quella dell'Alaska, dove questo Otter News dell'Alaska, dove ci sono la morte di Michael Jackson e quella di Farrah Fawcett messe insieme con due grandi foto, una a fianco all'altra, ovviamente di quando erano giovani e bellissimi, e il titolo è La morte di due icone culturali, perché per la cultura pop americana sicuramente lo erano. Il Washington Post titola ancora: il King of Pop, il re del pop, muore per un apparente attacco di cuore, perché i risultati dell'autopsia potrebbero anche darci qualche spiegazione. Sì, ce lo diceva anche prima Luciano Clerico, che ci sono un po' di dubbi che vengono riportati dalla stampa americana. Poi naturalmente c'è un'analisi su come anche questa volta il ruolo dei social media per diffondere la notizia, perché è avvenuto tutto, è stato iniziato con una notizietta su un sito, e poi Twitter, Facebook e tutti questi nuovi social media hanno fatto il resto, e nel giro di un quarto d'ora non solo davanti all'ospedale si era radunata una folla enorme, ma appunto la notizia era diventata di dominio globale. C'è invece un articolo interessante sul Times di Londra, e qui si analizzano già le conseguenze di questa morte improvvisa sulla società, la AEG Live, che aveva organizzato queste 50 possibili concerti all'arena, alla O2 Arena. Il danno calcolato dal Times è di 300 milioni di sterline, quindi circa 400 milioni di euro, solo per restituire i biglietti, pagare i danni insomma, ovviare a questa mancata occupazione dell'arena per 50 notti. Grazie Giulia Crivelli per essere stata con noi oggi. Abbiamo fatto un po' una rassegna stampa monografica, naturalmente, per la notizia che ha colpito tutti noi, cioè la morte di Michael Jackson. Abbiamo visto giornali americani in sostanza monopolizzati da questa notizia, giornali italiani oggi alcuni ce l'avevano nella cosiddetta ribattuta, quelli che hanno potuto poi rifare le pagine del giornale più tardi, e altri invece non ce l'hanno, ma siamo certi che domani anche i nostri quotidiani saranno invasi da questa notizia. E adesso proseguiamo, sempre parlando di musica, ma naturalmente di tutt'altro genere. Il concerto inaugurale al Teatro Romano, poi il Gianni Schicchi di Puccini con la regia di Woody Allen al Teatro Nuovo. Ecco che tutto è pronto per il debutto questa sera del 52esimo Festival dei Due Mondi di Spoleto. Il regista Giorgio Ferrara, che ne è il presidente e direttore dall'anno scorso di questo Festival di Spoleto, è sicuro di superare il numero di 20.000 spettatori che era stato raggiunto nel 2008. Festival che quest'anno ha anche una novità che potrebbe sfruttare dal punto di vista economico. E sentiamo allora che cos'è questa novità dallo stesso Ferrara, intervistato da Simone Spezia. Siamo riusciti a mettere insieme, diciamo, questa idea di festival che produce e che diventa proprietario di spettacoli che poi, oltre a essere presentati qui, verranno distribuiti in Italia e nel mondo con il nostro marchio, che questa è una cosa molto importante, ma non solo. Il fatto di crearli qui in luogo, dà il senso di questa città teatro nella quale si creano delle manifestazioni, degli spettacoli, dei concerti, insomma, ecco. Avete già prenotazioni, mettiamola così, per spettacoli a marchio Festival dei Due Mondi? Sì, certo, abbiamo già dei contatti con alcuni dei principali festival europei. Abbiamo contatti con teatri d'opera anche italiani e anche europei, e teatri anche privati. Quindi speriamo poi di concludere. GR Extra Large, ritorniamo in studio alle 13.45 per parlare, come annunciato, del G8 degli esteri che si sta svolgendo a Trieste. Diamo innanzitutto il buongiorno a Carlo Marroni. Buongiorno a voi. Carlo, prima di parlare con te, sentiamo le parole del nostro ministro degli esteri Frattini rilasciate appunto in occasione del G8. Noi siamo preoccupati per coloro che hanno sofferto violenza, siamo costernati e profondamente addolorati per le vite umane che si sono perdute. Il valore della vita umana sta sopra ogni altra cosa e questo va detto, ma poi evidentemente c'è una questione di medio-lungo periodo, la questione nucleare iraniana. Essa è al centro delle preoccupazioni del G8. Condividiamo due principi: che la porta del dialogo deve rimanere aperta, ma questo dialogo non deve essere un dialogo fine a se stesso. Qualche collega ha detto: stiamo correndo contro il tempo. Il tempo non è illimitato. E allora, Carlo Marroni, sì, appunto, queste le parole di Frattini. L'Iran ovviamente è al centro di tutti i colloqui e delle prese di posizione che devono uscire da questo G8. Sì, le parole di Frattini riassumono bene cosa è realmente accaduto. Io riassumo velocemente: i paesi europei del G8, i quattro paesi europei erano partiti con un'idea di forte condanna all'Iran, a quello che era accaduto, a tutto quanto quello che sta accadendo naturalmente a Teheran, e quindi all'attuale presidente presunto rieletto. Arrivati qua a Trieste c'è stata una netta frenata da parte della Russia, storico alleato dell'Iran e del suo regime, quel regime teocratico di Teheran, ma anche da parte degli americani. Ricordo che non è presente Hillary Clinton perché si è infortunata, c'è il sottosegretario Burns, però la posizione dell'America, specialmente dopo il discorso di Obama di qualche tempo fa sull'Iran, è di maggiore cautela nei confronti dell'Iran, la politica cosiddetta della mano tesa. Quindi sia America che Russia hanno frenato una condanna netta e forte, formale, del G8, cosa che non c'è stata nel documento finale. Appunto, si parla, come diceva Frattini, di fermezza, riprovazione verso i fatti accaduti a Teheran nelle ultime due settimane, però anche porta aperta sia nei confronti, appunto, di una soluzione pacifica del caso elettorale, sia in futuro per quanto riguarda il dossier nucleare. Carlo, brevemente, ci sono altri temi di cui si sta discutendo oltre l'Iran? Ricordiamo che l'Iran non partecipa comunque a questo G8. Nonostante fosse invitato. Nonostante fosse invitato. si discute in questo momento di Afghanistan e Pakistan, una sessione straordinaria voluta dall'Italia, voluta appunto da Frattini, per il quale aveva invitato appunto il ministro degli esteri Mottakiti, ma loro hanno rifiutato di venire. Afghanistan e Pakistan, la stabilizzazione dell'area, sappiamo che ci sono circa 3.000 soldati italiani, una missione di pacificazione che hanno enormi problemi della rinsorgenza dei talebani e della instabilità del Pakistan. Questo è il tema, si è parlato anche di Medio Oriente, oggi pomeriggio si unisce il cosiddetto quartetto, cioè la formula dei paesi occidentali che si occupa di mediazione in Medio Oriente. La richiesta che arriva dal G8 a Israele è bloccate gli insediamenti. Le colonie. Grazie Carlo Marroni. Grazie a voi. E noi torniamo invece all'Iran, perché è ancora blackout per quanto riguarda l'informazione. Oggi però potrebbe già essere messa in atto una nuova protesta. La protesta, duramente repressa in questi giorni, cerca nuove forme d'espressione. Da oggi i venditori di palloncini verdi in Iran potrebbero fare grandi affari. Il tam-tam è stato lanciato. Fate volare palloncini verdi in segno di solidarietà e speranza e per mostrare che la battaglia continua, in Iran e fuori. Non funzionando gli SMS, si sono scatenate le catene di email e i gruppi su Facebook. Il suggerimento è di lanciare i palloncini verdi, colore scelto dall'opposizione ma anche colore dell'Islam, all'uscita delle moschee per la preghiera del venerdì. Sul fronte istituzionale si cerca la normalizzazione. Il Consiglio dei Guardiani ha stabilito che non ci sono state frodi né brogli nelle elezioni del 12 giugno. Un alto religioso, Ahmad Khatami, ha esordato le autorità giudiziarie di Teheran a punire senza pietà i rivoltosi e ha chiesto al governo di controllare meglio la stampa straniera. A Londra, dove è riuscito a fuggire, ha cominciato a parlare Arash Hejazi, il medico iraniano che ha assistito agli ultimi istanti di vita della giovane Neda Soltani, uccisa da un proiettile mentre si trovava in mezzo a un corteo. L'uomo che le sparò, racconta il medico iraniano alla BBC, fu immediatamente catturato dalla folla che lo disarmò, gli prese la carta d'identità e scoprì che era membro della milizia dei Basiji, ma di fronte alla furia della folla lui urlava «non volevo ucciderla». La gente lo lasciò andare, tenendo però la carta d'identità. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. La fine di un mito, è morto Michael Jackson, arresto cardiaco mentre era nella sua casa di Los Angeles, in lutto i fan di tutto il mondo. Il CIPE dà il via libera alla realizzazione di una nuova autostrada Milano-Brescia, fondi anche per il traforo del Frejus. Il G8 dei ministri degli esteri a Trieste, in Iran cessino immediatamente le violenze, dice Frattini. Seconda prova di maturità per il liceo classico, una versione di Cicerone tratta dal De Officiis, per lo scientifico problemi con esagoni e tangenti. Le Dolomiti sono da oggi patrimonio dell'umanità, lo ha deciso il comitato dell'UNESCO. Ed è tutto per questa edizione della GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco ed Alessio Maurizi. Al coordinamento Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè. Adesso vi lasciamo ad uno dei grandi successi di Michael Jackson, You Are Not Alone. Another day has gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. Never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go and leave my world so cold? Every day I sit and ask myself, how did I slip away? Something whispers in my ear. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.